2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, benvenuti o bentornati, siamo a metà dell'estate, la prossima settimana con la nuova puntata saremo già immersi nel mese di agosto. Il 29 di luglio è una data importante per Microsoft e anche per milioni di persone in tutto il mondo che hanno oggi un sistema operativo Microsoft degli ultimi, perché per loro, per chi ha da Windows 7 a Windows 8, 8.1 eccetera eccetera, l'aggiornamento al nuovo Windows, il numero 10, sarà gratuito. C'è anche la possibilità di prenotare automaticamente dal sistema operativo l'aggiornamento e l'aggiornamento sarà automatico. La prossima settimana parleremo di Windows 10, che per Microsoft è un prodotto di discontinuità, tant'è che non è stato pensato Windows 9, ma si è saltati direttamente al Windows 10, e c'è chi dice che dalla prossima generazione del sistema operativo non ci sarà più il numero della versione, l'aggiornamento sarà graduale, di volta in volta sarà necessario e si chiamerà solo Windows. Ne parleremo la prossima settimana, adesso iniziamo come spesso, come sempre, all'interno di 2024, da alcune notizie in breve tra le più importanti della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei problemi legati alla sicurezza delle automobili in uno scenario in cui un numero crescente di veicoli sono connessi ad internet e i sistemi di bordo sono controllati da computer. Dicevamo che c'è un dibattito molto forte in atto fra gli ingegneri per proteggere le auto da attacchi informatici. Ci sono anche molti test in corso, insomma, molti studi. Questa settimana due ricercatori hanno dimostrato come sia possibile prendere il controllo da remoto di un'auto. Nel caso specifico hanno bucato il sistema Uconnect di una Jeep Cherokee guidata da un giornalista di Wired, la rivista americana. Questo sistema rimane connesso alla rete internet e i due hanno sfruttato una vulnerabilità per prendere il controllo e fare azioni innocue, come controllare l'aria condizionata o il volume della radio, fino a spegnere il motore o a disattivare i freni, quindi anche cose piuttosto pericolose. Fiat Chrysler ha annunciato di avere già corretto questa vulnerabilità che riguarda circa 470.000 veicoli nei soli Stati Uniti, quindi il problema è relativo solo agli Stati Uniti. I due ricercatori, uno lavora a Twitter, l'altro a una società che si chiama ID Activate, spiegheranno come hanno fatto, perché mancano ancora molti dettagli, lo faranno alla Black Hat Security Conference che ci sarà nei prossimi giorni a Las Vegas, è un appuntamento molto importante per la sicurezza informatica. Tuttavia, questo è un problema che esiste e due senatori americani hanno proposto di approvare una legge per obbligare i produttori di auto a seguire precisi standard di sicurezza anche digitale, quindi non solo avere l'airbag e l'ABS, ma anche avere alcune protezioni digitali. Digital News. A proposito di hackers, è stato bucato uno dei più noti siti al mondo per incontri extraconiugali, si chiama Ashley Madison, e ora gli hacker minacciano di pubblicare i dati di milioni di utenti. A proposito di automobili, secondo il Wall Street Journal, Nokia avrebbe raggiunto un accordo per vendere la divisione mappe e servizi di infomobilità chiamata HERE, che ha sede in Germania, ad una cordata di produttori tedeschi formata da Audi, BMW e Daimler. Prezzo dell'operazione 2,7 miliardi di dollari. In questo modo i produttori tedeschi si dotano di una tecnologia utile sia per lo sviluppo delle auto del futuro, fino ai veicoli automatici, sia di uno strumento per combattere Apple e Google. Una notizia che riguarda l'Italia, anche Tiscali si unisce agli operatori italiani come Telecom, Fastweb e Vodafone, che offrono connessioni superiori ai 20 megabit delle ADSL. Quando la DSL funziona bene, in questo caso la tecnologia è Fiber to the Cab, cioè la fibra fino agli armadi di strada, poi si prosegue con il vecchio rame. Tiscali ha già coperto con questa tecnologia 50 comuni e promette velocità fino a 50 megabits. Un'ultima notizia che è un accenno solamente, questa settimana è stato approvato il nuovo regolamento ENAC per l'uso dei droni. Ci sono molte novità interessanti, ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate di 2024. Bene, adesso vi presento il primo ospite di questa puntata di 2024. Parliamo di un'applicazione tutto sommato molto semplice, ma la inseriamo, la chiacchierata di oggi la inseriamo all'interno degli esempi di come un'applicazione può creare, quindi un'idea che diventa un'applicazione può creare un'azienda e creare anche posti di lavoro. Kurami è un'app che serve per gestire le file. Ne parleremo tra poco con Roberto Macina, che è l'ideatore, uno dei fondatori di Kurami. Benvenuto a 2024. Ciao Enrico. Ciao. Kurami che cos'è? Partiamo subito dall'applicazione. Perfetto. Kurami è un'app che permette a noi utenti di fare quello che a volte è fastidioso, no? Ovvero le file. Oggi siamo abituati ad entrare per esempio al municipio per rinnovare la nostra carta d'identità, prendere il classico numeretto ed aspettare, se ci dice fortuna, a poche decine di minuti. Sì, sì. Con Kurami possiamo fare questa operazione semplicemente dal nostro telefono, quindi prima di entrare nella struttura vedere quanta fila c'è e nel caso in cui sono a una distanza tale riesco a prendere il numeretto, prendere un vero e proprio numeretto direttamente dal mio smartphone. Poi ci torniamo e spieghiamo meglio come funziona. Allora, innanzitutto dico una cosa che mi piace, mi ha fatto piacere: questa app non è solo per i soliti iOS e Android, è anche per BlackBerry e per Windows Phone. Siamo stati matti, sì. Sì, per tutti. E quindi questo è sicuramente un modo per espandere il pubblico. Voi siete una società, siete ancora una startup, diciamo così. Diciamo di sì, dai. Siete una startup. A chi vi rivolgete? Perché ci sono tantissimi posti dove si fanno le file. Però voi avete un focus particolare. Noi ci rivolgiamo a tutte le aziende o strutture private o pubbliche dove si crea un flusso di persone, no? Quindi si parla dai comuni, si parla dai camere di commercio, alle banche, ai privati, molte compagnie telefoniche, negli store si creano file. Quindi ovunque potenzialmente ci sia un flusso di persone continuo o anche fatto a picchi, no? Perché noi magari riusciamo ad essere d'aiuto non tutto il giorno, ma solo durante i picchi. Ma uno potrebbe pensare, ma è possibile che non ci sia un'app al mondo che serve per gestire le file? Guarda, è incredibile. Quando mi è venuta in mente questa cosa è quando proprio io stavo facendo una fila, no? Forse la mia più importante nella mia vita, perché stavo consegnando la mia tesi di laurea. E quindi tutte l'università era lì per fare la stessa mia operazione. E ho aspettato 50 minuti per fare solo il gesto di consegna e ho detto ok, dai, sicuramente c'è qualcuno che ci ha pensato, no? Quindi avevo il mio iPhone in mano e alla fine 2010 comincio a cercare, non c'era niente. Ho fatto, ma non ci credo che una cosa così facile non ci ha pensato nessuno. E quindi poi facendo anche ricerche un po' più avanzate vedevo che c'era qualcosa di tecnologico, però era veramente qualcosa web based, veramente veramente non complicato, non ho passato quei tempi. Ho detto ok, c'era un'opportunità di business, proviamoci. Ero scontento del mio lavoro, quindi mi sono buttato. Altra domanda sempre sul business e sull'opportunità, ma c'è così tanto business nella gestione delle file? E se tu pensi alla quantità di strutture dove si crea il flusso di persone, la quantità di persone che poi si regolano in questi posti, l'esigenza è veramente tanta. Lo dimostra il fatto che noi in poco tempo siamo riusciti a prendere molti clienti e molti utenti. E molti pensano che è solo un'esigenza italiana, invece poi andando un po' a studiare gli altri mercati abbiamo visto che è un'esigenza veramente magari mondiale anche. Magari i posti dove si fanno le file sono diverse. Per esempio in America non vai mai dal comune a fare le carte d'identità, però magari vai al ristorante e aspetti ore. Sì. Quindi devi capire anche qual è l'esigenza paese per paese. Sì. E quindi c'è business. C'è business. Anche se sembra una nicchia, ma è una nicchia, sicuramente una nicchia. Però poi molte startup abbiamo visto che fanno successo perché si concentrano su una nicchia, certo, e diventano leader in quella nicchia. Sì, sì. Voi dite, uno dei vantaggi è che tu hai un'app, che è un concetto che abbiamo visto anche in altri segmenti di mercati in altre aree, che fa solo quello e lo fa però per tutti i luoghi, naturalmente, che sono diventati i vostri clienti, dove c'è da fare una fila. Quindi non è che io se vado a Roma devo scaricare un'app, se vado a Milano devo scaricare un'altra app. Bravissimo. La nostra visione è stata quella di essere sempre orizzontali, no? All'inizio è stato molto difficile proporre questo concetto, ma oggi è la vera nostra arma forse di successo, perché permettiamo all'utente con una sola app di essere in mille città diverse o di essere in posti di tipologie di posti diversi e avere un'unica app. E questa oggi anche dai clienti che nuovi e vecchi, che all'inizio erano un po' forse un po' restii a questa cosa, oggi in verità è veramente un'arma, veramente un'arma. I vostri clienti chi sono? Vanno, spaziano dalla sanità alla pubblica amministrazione, ai privati, all'università, alle camere di commercio, quindi abbiamo tutte molte tipologie di clienti. Quindi sono le società che erogano un servizio e per usufruire di quel servizio i cittadini fanno la fila. Esattamente. I cittadini non pagano niente. Niente. Cioè l'esperienza è simile, anzi si integra, e adesso spieghiamo come si integra, con il classico totem, cioè la macchinetta che eroga il biglietto. Bravissimo, questa è un'altra differenza rispetto ai sistemi che c'erano, che ci sono e che c'erano prima. E noi, oltre a fare questo sistema orizzontale, l'abbiamo voluto fare integrato con i sistemi che ci sono, perché non volevamo dare la percezione che Kurami fosse un saltafila. Quindi chi ha lo smartphone ha una fila diversa rispetto a chi invece sta lì con il numeretto. Cioè fai la stessa fila. Fai la stessa fila e il valore tecnologico è proprio qua. Quindi c'è un'app bellissima, ma poi c'è tutto un sistema di backend dietro che si va a connettere con i totem che oggi sono disponibili presso le strutture. Quindi, perfetto, se io prendo il 100 da Kurami, la persona che entra un secondo dopo nella stessa struttura per lo stesso servizio prenderebbe il 101 alla macchinetta. E questo per noi è stato fondamentale uscire sul mercato già con questa soluzione. Certo, quindi io il mio biglietto è in realtà sullo smartphone. Esattamente. Cioè il 101 sullo smartphone. Esattamente. Allora, tu dicevi che lo si può prendere addirittura prima di arrivare nell'ufficio, perché chiaramente se io prendo il bigliettino nel classico modo col totem, devo essere fisicamente lì. In questo modo io posso vederlo anche prima, posso addirittura vedere quante persone ci sono in fila. Esattamente, tu è come se fossi entrato virtualmente, no? Sì. Quindi tu entri e non ti fai la conta un po' ad occhio di quante persone ci sono, ma lo sai matematicamente grazie a Kurami. Quindi tu entri virtualmente nella struttura dove vorresti andare e come se trovassi davanti i vari servizi che eroga la struttura con quante persone ci sono per quei servizi lì. Se stai a una distanza tale per cui riesci a staccare il numeretto, vuol dire arrivare in tempo, Kurami te lo eroga, altrimenti ti avvisa, avvicinati e riprova. Quindi se sto a 20 km e il sistema capisce che non farai in tempo ad arrivare fisicamente, non ti eroga mi prendo il biglietto. Oppure se c'è troppa poca fila, anche se sei molto vicino e c'è poca fila, Kurami ti dice guarda vai dentro, tanto non c'è nessuno. E mi dice anche quanto manca al momento in cui potrò andare allo sportello? Sì, c'è una stima, a seconda poi delle strutture rispetto ai dati che poi ci passano, c'è una stima di quando di essere servito, anche se poi il dato in tempo reale sono le persone che hai davanti, perché appena l'operatore schiaccia il numero successivo, tu con Kurami vieni notificato di questo. Ok, e ad un certo punto l'applicazione mi dice guarda che fra poco è il tuo turno. Fra poco è il tuo turno, entra, non ti aggiorno più e quindi entra se no perdi il turno. Quindi nel frattempo io potrei anche andare a fare un giro. Assolutamente. Perché assolutamente. Comunque l'applicazione mi avvisa. L'applicazione ti avvisa e di fatto fa la fila per te, infatti è anche il nostro claim, quindi fa... di fatto è l'app che fa la fila. Senti, per te. Ma quelli che costruiscono i totem, che quindi erogano un servizio agli uffici pubblici, alle poste, all'agenzia delle entrate, tutti i luoghi dove si fanno anche delle lunghe file, ma potrebbero domattina fare un'applicazione del genere integrandola con i loro servizi. Assolutamente sì, è stato un po' il pericolo del nostro inizio, no? Perché noi stiamo andando a proporre qualcosa che forse potevano fare anche loro, però lo potevano comunque fare solo per i propri totem, e quello sicuramente era quello che per noi è uno svantaggio, no? Sì. E altra cosa, noi eravamo un team che fa solo questo, no? Quindi anche la bontà dell'app e del sistema, concentrandoci solo su questo, sicuramente a livello qualitativo è poi risultata migliore rispetto a quello che avessero dovuto fare loro. Quindi voi avete un buon rapporto con queste società? Oggi siamo, all'inizio è stato ci siamo dovuti far capire, no? Cioè non è che li guardavano tanto bene. No, per niente. Questi fanno, niente. Ci vengono a far concorrenza. Esatto. Sti romani sono arrivati così. Invece oggi c'è un bel colloquio con tutti, perché vedono un valore aggiunto del nostro servizio rispetto a quello che fanno loro, e soprattutto i clienti glielo chiedono, quindi hanno capito che veramente Kurami è diventato, per quello riguarda l'esperienza mobile in fila, è diventato un punto di riferimento. Sì. Senti, se io sono un negozio privato e volessi fare il mio e oggi non ho un servizio che eroga i bigliettini per fare le file, se io volessi fare tutto via smartphone, posso venire da voi e mi erogate il servizio via smartphone? Assolutamente sì, diciamo che è ancora è qualcosa che ci stiamo arrivando, quindi non si, più che bigliettini, a questo punto si parla di una gestione di appuntamenti intelligente, sì. Quindi è un'esigenza che molti ci hanno già manifestato, Quindi questo fa sì che con questa evoluzione Kurami può andare non solo ai grandi clienti che già abbiamo, ma anche ai piccoli negozi smart o consulenti che vogliono essere un po' più smart rispetto alla propria potenza. Quindi oggi non ancora. Oggi non ancora, dopo l'estate richiamateci. Ah, ok. questa è buona. Quindi oggi vi integrate solo ai sistemi che da un certo punto di vista sono la vostra salvezza. Sono la nostra salvezza. E forse è stato il motivo per il quale dopo il primo annetto e mezzo si è capita la bontà di Kurami, no? Perché è veramente diventato un sistema orizzontale su tutti i sistemi e su tutti i tipi di clientela. All'estero come vanno le cose? All'estero sicuramente la nostra sfida maggiore sarà quella di dimostrare che Kurami non fosse un problema romano, fosse un problema poi italiano, ma potesse scalare anche fuori. E ci siamo guardati intorno e sicuramente sarebbe stato sbagliato andare un po' senza una visione in giro per il mondo. Abbiamo scelto dei paesi. Uno che è quello, la Spagna, sì. che è stato molto facile approcciarlo in quanto sono molto simili, sì. stessi problemi. Sì, sì. E le aziende spagnole guardano molto quello che fanno le aziende italiane. Quindi, quando abbiamo portato una case story italiana, è stato ovviamente posso dirlo facile convincerli sulla bontà di Kurami. L'altra è stata un po' una sfida, che è l'Inghilterra, dove il problema della fila è visto, non è un problema, è ovviamente una cosa culturale. Però siamo riusciti a fare dei casi in sperimentazione che hanno dato buonissimi risultati e finalmente adesso vedranno la luce. Vorrei tornare un attimo al business. Il business è talmente interessante che voi avete ricevuto, se non parliamo di milioni di euro, però già dei finanziamenti importanti, giusto? Sì, noi in 3 anni abbiamo raccolto da business angel, incubatori e venture capital 800.000 euro, e il più grosso dei quali l'abbiamo chiuso a dicembre, il scorso dicembre 2014, di 600.000 euro, che è il budget che ci sta permettendo di scalare su questi paesi, quanto vogliamo investire e creare traction non solo in Italia ma anche in questi nuovi paesi, in modo tale da dimostrare che Kurami è un servizio che può funzionare ovunque e poi fare l'ultimo sforzo l'anno prossimo. Non c'è la pubblicità, giusto? Odiamo la pubblicità. Ah, bravo. Questo è interessante perché molto spesso servizi basati sulle applicazioni, tra l'altro pensando alla fila, dove ci sono ampi spazi per infilare pubblicità, perché uno è lì che aspetta, uno potrebbe dire nel frattempo ti faccio vedere dei video, ti faccio vedere della pubblicità, potrebbe essere un canale. Però voi dite no, il servizio lo paga chi eroga, il comune, la pubblica amministrazione, eccetera eccetera, e non c'è pubblicità. Non può essere una via futura. All'inizio in realtà ovviamente ci abbiamo pensato ai modelli di business vari, no? Alla fine abbiamo, facendoci banalmente i conti, visto che essendo un sistema solo software che può essere pagato pochissimo alle amministrazioni, e poi di fatto una volta presi i costi umani, i costi delle persone, è veramente tutto margine. Quindi abbiamo deciso di non sporcare un'esperienza d'uso per l'utente, che è veramente carina e veramente bella, e renderlo un servizio utile e piacevole da usare, e quindi far pagare un piccolo canone a chi vuole erogare il servizio, e l'utente gratis, la scarica gratis, il cittadino è contentissimo di usare Kurami, esperienza pulitissima. Molto bene, Roberto, io ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa idea, che è una bella idea. Grazie, crepi. Riprendiamo questa puntata di 2024. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in versione ridotta durante questa estate. Comunque trovate tutte le nostre puntate, anche quelle vecchie, sul nostro archivio su radio24.it, oppure se vi abbonate al servizio podcast potete creare la vostra libreria personale di tutte le puntate di 2024. Andate sulle principali piattaforme che distribuiscono podcast, potete farlo anche tramite il nostro sito internet, ma ad esempio se avete un iPhone scaricate la app podcast, cercate 2024, idem se avete uno smartphone Android scaricate un'app che possa gestire il podcast, andate sul Play Store, digitate podcast, lì trovate alcune applicazioni, ce ne sono molte che gestiscono i podcast, cercate 2024 e poi vi abbonate gratuitamente, tutto gratis, molto semplice, un nuovo modo per ascoltare i programmi della radio. Dunque, a proposito di nuove idee, di applicazioni che nascono da un'idea e diventano un business, abbiamo parlato poco fa di Kurami per gestire le file, un'idea molto semplice ma che poi per essere realizzata richiede capacità di vario genere. Adesso parliamo di trasporti. Sapete che questo è un tema molto interessante e anche molto bello, vedere come la flessibilità delle applicazioni rende più agevole il mondo dei trasporti. Ne parliamo da molto tempo, ci sono tantissime idee all'interno delle città, tra le città, per creare nuove modalità con cui si possono spostare le persone e le cose. Questo è un argomento di cui abbiamo parlato varie volte nel 2024, perché penso che ci siano molte novità per sbloccare un mondo di fatto fermo da tanto tempo, da tanti anni. Allora, recentemente durante SMAO Firenze, che è stata l'ultima tappa di SMAO un paio di settimane fa, ho incontrato i ragazzi di GoGo Bus, scritto GoGo Bus. Stiamo parlando di trasporto tra città su autobus non di linea. Ne abbiamo parlato con Alessandro Zocca, che è uno dei fondatori di GoGo Bus. Esatto, è un servizio che permette sia di prenotare che di organizzare un viaggio. Tramite il nostro sito si può fare una proposta di viaggio, che può essere per una qualsiasi destinazione, che sia una città, una località turistica, un concerto, un evento speciale, e una volta che raggiungiamo un numero sufficiente di richieste, noi mettiamo a disposizione il pullman e apriamo le prenotazioni. Quando sono raggiunte le 30, confermiamo la partenza. È molto interessante il modello di prezzo che abbiamo sviluppato, perché è un modello per il quale all'aumentare delle prenotazioni il costo del singolo biglietto diminuisce. Quindi io non sono sicuro di trovare posto, perché se non raggiungiamo un numero minimo il pullman non viene effettuato, cioè il viaggio non viene effettuato. Esatto, però comunque noi diciamo facciamo uno screening delle proposte e mettiamo in programmazione quelle che valutiamo possano avere una percentuale di riempimento sufficiente a farlo partire. Servizi di questo genere si basano sulla, immagino, una minima collaborazione anche delle società di trasporto. Esatto, infatti abbiamo degli accordi con diverse società di autonoleggio autobus in tutta Italia e che ci forniscono i mezzi per i nostri servizi specifici. Voi dite vorremmo diventare il BlaBlaCar degli autobus. Ecco, però in questo caso il modello prevede che ci siano già degli autobus che viaggiano e uno si aggiunge al numero di passeggeri già prestabilito, magari su un viaggio di linea. Esattamente, abbiamo scoperto che succede che le società che fanno appunto viaggi turistici, capita che abbiano dei ritorni vuoti, quindi portano magari un gruppo a Roma, ipotizziamo, e tornano a Milano vuoti. Quindi noi mettiamo a disposizione questo vuoto sulla nostra piattaforma e rendiamo prenotabile il posto singolo, quindi ottimizziamo un riempimento che molto probabilmente sarebbe andato vuoto se noi non avessimo inventato questo sistema. In quel caso c'è sempre il limite dei 30? No, in quel caso la partenza è sempre confermata, anche se c'è una persona. Avete già effettuato viaggi sia nella prima modalità che in questa modalità? Ne abbiamo effettuata per il momento uno in questa modalità di riempimento e una decina circa con viaggi a richiesta organizzati. Non esistono servizi del genere in altri paesi? In Italia forse no. All'estero abbiamo visto che non c'è niente di simile, c'è qualche tentativo un po' diverso di bus sharing urbano con linee richieste urbane in Egitto e a Singapore, ma in Europa un sistema così sofisticato e così con questa connotazione social che gli abbiamo dato non esiste. Che tipo di viaggi organizzate? Su tratte brevi, medie, lunghe, e soprattutto andate su tratte dove già esistono servizi di linea, perché di servizi di linea di bus ce ne sono tantissimi in tutta Italia, e quindi si potrebbe creare anche una sorta di competizione con chi fa questo di mestiere. Tendenzialmente cerchiamo di lavorare sulle medie percorrenze, che sono le distanze che ci permettono di avere i migliori prezzi, e anche per destinazioni speciali o non servite da collegamenti di linea, come concerti, manifestazioni ed eventi, ma può benissimo anche capitare che si sovrappongano con questi famosi ritorni vuoti anche a servizi già esistenti di linea. Potrei dire che se uno ha un gruppo di persone e vuole organizzare una gita oppure vuole andare ad un concerto, può utilizzare voi invece che rivolgersi direttamente alla società di autonoleggio. Assolutamente sì, e la grossa comodità è che noi permettiamo al singolo di poter acquistare il proprio biglietto. Diversamente ci dovrebbe essere una figura che organizza, che raccoglie, che paga, che si fa fare la fattura, invece noi online con carta di credito è molto semplice la parte organizzativa. A questo punto dai bus passiamo ad una squadra di calcio. Sempre in occasione di SMAO Firenze ho incontrato Gianluca Baiesi, che è il direttore esecutivo della Fiorentina Calcio, che è stata premiata per una nuova applicazione che mette in contatto i tifosi con la squadra. Tutte le grandi squadre, soprattutto le grandi squadre di calcio, da tempo, già da alcuni anni, cercano tramite internet, tramite le applicazioni per smartphone, di creare una community. In questo caso una parte interessante, che è una novità per il mondo del calcio, non unica della Fiorentina, ci sono già altre squadre, ma siamo agli inizi, sono i primi mesi di questa novità, cioè la possibilità di avere sullo smartphone il biglietto ed entrare allo stadio, così come ormai succede quando si fa check-in e si entra all'aeroporto con la carta d'imbarco virtualizzata sullo smartphone. Gianluca Baiesi ci racconta che cosa hanno realizzato alla Fiorentina. Ma l'innovazione principale è una piattaforma che consente di mettere insieme per la prima volta la membership con la loyalty, quindi un progetto di membership e loyalty congiunti. Spieghiamolo bene per i nostri ascoltatori, che cosa significa mettere assieme queste due cose? Ma diciamo che il progetto di membership, o perlomeno la membership delle squadre di calcio, riguarda essenzialmente l'affiliazione dei tifosi, quindi sostanzialmente la tessera del tifoso di comunità, non la tessera quella governativa, esatto, non quella vituperata, sì. Ma sostanzialmente una community di tifosi, mentre invece il progetto di loyalty è inteso come l'affiliazione di aziende attraverso la quale i consumatori possono accumulare punti. Nel caso del nostro progetto, l'unicità dello stesso è proprio questo connubio fra tifosi e piccoli esercenti che fino a qualche anno fa avevano serie difficoltà a entrare nel mondo Fiorentina. Pensiamo che questo progetto abbia contribuito in maniera significativa ad abbattere queste barriere. Queste cose in generale nel mondo dello sport, al di là del vostro caso, si fanno già da tempo o con difficoltà? Dunque, per quanto riguarda il progetto di membership, è sicuramente un progetto che non è innovativo in quanto tale. Come dicevo prima, è molto più innovativo cercare di accumulare in una situazione win-win sia i tifosi che la squadra che le aziende piccole e medie, e quindi di conseguenza il territorio. Perché, per chi conosce bene come funziona il calcio, il problema principale in passato per queste categorie era proprio quello di entrare in contatto diretto con la squadra, con la società e con i calciatori in senso stretto. Oggi, grazie a questo progetto e attraverso questa piattaforma digitale importante che abbiamo sviluppato, c'è una sinergia e una interattività che in passato assolutamente non c'era. Tengo a precisare che questa interattività viene sviluppata, ed è probabilmente per questo, questo è il motivo principale per cui siamo qui oggi, attraverso un sviluppo molto molto importante di quelli che sono il sito web di Fiorentina, con sezioni appositamente dedicate a grandi e piccini, come si suol dire, in cui i tifosi riescono a interagire con la società e con la squadra in maniera diretta, e attraverso i social. Abbiamo complessivamente più di 2 milioni di adesioni a livello web, e quindi questo ovviamente crea una community digitale di grandissima importanza, che poi funge anche da catalizzatore e da innesco, direi, per tutta una serie di innovazioni che seguono questo progetto principale. Ecco, quali possono essere queste innovazioni che non so se sono già presenti o saranno future? Ma le innovazioni sono decisamente numerose. Ne cito due che secondo me rappresentano un po' il fiore all'occhiello della nostra società. Da un lato, il concetto di smaterializzazione del biglietto di entrata allo stadio, che verrà sostituito con delle app, per cui dall'anno prossimo allo Stadio Franchi si potrà entrare direttamente con lo smartphone. Quindi come all'aeroporto la carta d'imbarco ormai è smaterializzata. Esattamente questo concetto, e dal nostro punto di vista questo è un passo avanti molto importante. La seconda innovazione è la possibilità di profilare tutti i nostri tifosi che aderiscono a questo progetto in viola e conoscerli a fondo. Questo non è assolutamente un discorso di intelligence, fra virgolette, ma business analytics, assolutamente no, ma è un discorso di vantaggio anche e soprattutto per i tifosi, perché riusciamo a, conoscendone le caratteristiche, riusciamo a metterli al centro di ogni nostra iniziativa aziendale e societaria, creando delle opportunità e soprattutto a livello emozionale che prima non potevamo sviluppare in quanto la conoscenza era più rarefatta, vorrei dire. Quindi attraverso questo progetto entriamo in contatto diretto e conosciamo sempre di più i nostri tifosi al fine di conferire un servizio sempre migliore. E così concludiamo questa puntata di 2024, la nostra versione podcast. Grazie come sempre per averci ascoltato, per aver scaricato il file MP3 o aver ascoltato in streaming dal nostro sito internet o dalla nostra applicazione o tramite le tante applicazioni che esistono sul mercato. Continuate a scriverci al nostro indirizzo 2024@radio24.it, scrivendo da dove ci ascoltate, come ci ascoltate. Continuano a scriverci molti che fanno sport mentre ascoltano 2024, insomma questa è una buona notizia, visto che molti dei nostri ascoltatori si mantengono in forma facendo sport e anche ascoltando 2024. Quindi scriveteci, non ultimo potete anche segnalarci l'applicazione che utilizzate per la gestione dei vostri podcast. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora, appuntamento alla prossima settimana. 2024.